Di fronte alla borsa qualche volta, cara Nicoletta, dobbiamo turarci il naso e quindi lo dobbiamo soffiare. Certo, e metto le mani lì. Anch'io lo faccio. La pancia borbotta, sed panciam borbottam, non so. Un giro visa che ci vuole la terra metrica. Il tema natiche, però mettetevi la mano sul fuoco, sì sul fuoco, sul cuore, ma sul fuoco non ce la metto, che ve la mettiate. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Ieri le abbiamo festeggiate e oggi invece le invitiamo a stare con noi a Cuore Denari, mamme all'ascolto di tutte le età, ma anche figli e figlie che siete cuore di mamma, chiamateci subito al nostro numero verde 800 24 00 24. Mi piace questa puntata. Un bacio ufficiale alla mia, a cui ieri l'ho potuto dare solamente telefonicamente, ma dimmi un po', tu che cosa hai ricevuto? Ti hanno festeggiato le tue ragazze? Sì, mi hanno festeggiato come sempre, e io però devo dire che promuovo i festeggiamenti. Brava. Perché ho iniziato a dire: è la festa della mamma, è la festa della mamma. 20 cosa giorni facciamo prima per la festa della mamma, cosa vi preparo per la cosa mi preparate? No, e poi come ogni anno ho ricevuto la zalea, che è un regalo che ho fatto anche alla mia mamma e anche alle mie amiche. D'altra parte, Deborah, ormai la zalea è diventata un po' il fiore simbolo della festa della mamma. Fa bene alle donne e soprattutto alla ricerca. E pensa che è 30 anni che esiste questo appuntamento, iniziativa che ha proprio reso tutti i tumori femminili sempre più curabili. Questo è un successo, credo, che faccia bene a tutte le donne, non solo alle mamme. Proprio in occasione della festa della mamma, tra l'altro, Save the Children ha pubblicato la classifica dei paesi nei quali lo stato di salute, il livello di istruzione, le condizioni economiche, politiche e sociali sono tali da garantire il benessere delle mamme e dei loro figli. E allora, che cosa ne emerge? Che tanto per cambiare, il Nord Europa chiaramente ha le pratiche più interessanti. Ne emerge che la Finlandia è il paese in cui essere madri è più facile, l'Italia in questa classifica è all'11° posto. È in salita, sì, in recupero, lo vogliamo dire. Esatto, rispetto alla 17esima posizione dello scorso anno, segno che qualcosa per fortuna è cambiato in meglio. E allora noi lo chiediamo alle mamme all'ascolto: avete notato dei miglioramenti anche dei servizi che vi stanno attorno? Raccontiamo anche le buone storie stamattina. Secondo voi cosa è stato a farci guadagnare questi 6 posti? Segnalateci servizi e opportunità che avete notato nel vostro territorio. 800 24 00 24, il numero verde da subito a vostra disposizione. Magari Deborah, a sorpresa, scopriremo che non abbiamo nulla da invidiare alla Finlandia, o la stiamo raggiungendo, perché questo avanzamento dal 17° all'11° posto vorrà dire qualche cosa. Speriamo. Quindi non parleremo solo di Finlandia, ma con le mamme faremo un bilancio, come anticipato alla Cuore Denari. Parleremo di salute, parleremo di risparmio. Chiamateci subito, potete scriverci al 349-238-6666, seguirci su Facebook e su Twitter. Parleremo di salute, perché noi mamme tendiamo a trascurare un po', ci mettiamo sempre all'ultimo posto, e perché dobbiamo conciliare mille cose, si pensa al figli, al marito, al lavoro e alla casa, e noi veniamo sempre dopo. I controlli non si fanno, si rimandano, questo ce lo siamo detti tante volte, non conviene tanto. Quindi se avete dei dubbi, se volete parlare con noi, e soprattutto anche naturalmente parlare di come educate ad un buon stile di vita i vostri figli, noi siamo qua con tanti esperti. Atteggiamento nuovo tipico delle neomamme è quello del senso di colpa, quando si allontanano, quando anche solo per due secondi lasciano il bebè a qualcun altro. Ma magari questa volta questo senso di colpa arriva anche per aver speso troppo, perché l'arrivo di un bambino o di una bambina cambia tutto il bilancio della famiglia. E noi ne parliamo con la nostra prima ospite di oggi, che vi presento così. Quando rimasi incinta, né io né lui avevamo un lavoro. Potevo fare due cose, piangermi addosso o diventare campionessa di risparmio. Ho scelto la seconda. Buongiorno ad Ilaria Cuzzolini, ideatrice del blog mammarisparmio.it. Ciao Ilaria, benvenuta. Ciao Nicoletta, ciao Deborah e grazie mille per l'invito. Sconti, omaggi, un po' d'amore e un pizzico di ingegno, questo è il sottotitolo del tuo blog, del tuo sito, e per te è proprio il caso di dire che la maternità ha aguzzato l'ingegno. Ci vuoi raccontare la tua storia? Sì, è aguzzato l'ingegno perché proprio dalla maternità è nato questo mio sito, mio blog che si chiama mammarisparmio.it, e attraverso il quale racconto la mia esperienza di mamma e do dei consigli utili a tutte le altre mamme, neomamme o chi si prepara a diventarlo, per risparmiare nel campo del maternage, quindi dal momento in cui rimangono incinta fino poi ai primi anni del bebè, perché ci sono tantissime occasioni di risparmio online e spesso le mamme non hanno tempo di guardare su internet le varie promozioni, coupon, anche perché ormai è diventato un oceano di coupon e di promozioni, per cui è difficile davvero poi ottimizzare i tempi, anche perché spesso le mamme poi lavorano fino all'ultimo proprio per poter usufruire della maternità obbligatoria e avere quel mese in più per stare appunto con i loro figli, e quindi le mamme, non avendo tempo, finiscono con lo spendere di più. Quindi certo, un passeggino, un ovetto, lo pagano tutto di più quando in realtà potrebbero spendere e di meno. E quindi sei tu che un po' vai alla ricerca di tutte queste iniziative anche su internet naturalmente, quindi aiuti un po' tutte le mamme in quante vanno poi a visitare tutte queste iniziative che tu riesci a raccogliere. Ma guarda, sono tantissime. Adesso i numeri sono molto variabili online, però ti dico che il mio sito esiste praticamente, compie adesso fra una settimana un anno, e già mi ha permesso di entrare in contatto con una moltitudine di mamme. Su Facebook siamo quasi 12.000, quindi siamo tantissime, proprio perché c'è questo bisogno legato comunque a dati oggettivi, alla crisi, di risparmiare, ma soprattutto c'è anche tanta voglia di condivisione, perché una mamma alle prime armi non sa ovviamente destreggiarsi, non sa cosa fare bene e ha bisogno di consigli pratici, io ne do sia sul risparmio sia sulla mia esperienza di mamma, perché io ho avuto, come dicevi tu giustamente nel claim, la sfortuna di non avere un lavoro, però adesso non voglio appunto piangermi eccessivamente addosso, ma ero garantita perché avevo la casa di proprietà, per cui non avevo un mutuo, un affitto da pagare, avevo un sussidio di disoccupazione perché io sono rimasta incinta subito dopo aver perso il lavoro. E non subito dopo, però insomma avevo un sussidio di disoccupazione comunque che mi ha garantito la possibilità di sopravvivere insieme a mio marito, che era arrivato da un mese dalla Colombia, ancora non parlava l'italiano, insomma è arrivato questo figlio un po' a sorpresa. È stato un momento un po' intenso, quando, diciamo. Quando si dice che un figlio cambia la vita, ecco, la vostra vita è cambiata proprio drasticamente. Tantissimo, tantissimo, e proprio perché con un unico stipendio, è troppo chiamarlo stipendio, con un sussidio di disoccupazione dovevamo vivere in due, che pur non dovendo pagare un affitto o un mutuo comunque si fa fatica in una città come Milano, quindi abbiamo dovuto tagliare tutte le attività leisure, tutti i ristoranti, pizzerie a cui ero abituata prima, dal tipo di vita che facevo prima che era molto diverso, e siamo dovuti andare al discount, insomma abbiamo dovuto imparare, e soprattutto io, un modo di vita diverso, completamente differente, e quindi è stata dura, ma insomma ce l'abbiamo fatta, e adesso insomma hai fatto di necessità virtù, perché poi ti sei inventata appunto mammarisparmio.it, che segnaliamo soprattutto alle nostre ascoltatrici neomamme o che stanno diventando mamme. E vogliamo capire anche dalle nostre ascoltatrici come la gravidanza le ha cambiate. E che cosa abbiamo detto della nostra mamma risparmio? Ti si è illuminata la lampadina per necessità, ti sei messa anche a fare questo sito che raccoglie molto successo. Ma chissà quante mamme all'ascolto ci vogliono raccontare come è cambiata la loro vita, come si sono organizzate. Vogliamo parlare come sempre anche di salute delle mamme, perché la gravidanza cambia, e in linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Daniela Lucini. Buongiorno professoressa. Buongiorno Nico, come va? Io bene, grazie. Rifesteggiamo la festa delle mamme. Benissimo. Ricordo che la professoressa Lucini è associata all'Università di Milano ed è responsabile della sezione di medicina dell'esercizio all'Humanitas. Professoressa Lucini, lei a proposito di ingegno ha ideato un questionario su cui noi ci misureremo nel corso della trasmissione. Lo potete trovare sulla nostra pagina di Cuore Denari. Ha un questionario con domande relative alle mamme e ai loro bambini. Io ho subito sottolineato da mamma che noi tendiamo a trascurarci, a rimandare i controlli, non abbiamo mai niente, anche se sentiamo un dolorino, abbiamo un segnale, lo mettiamo a tacere perché il tempo non c'è, ci sono sempre mille altre cose da fare. Ma professoressa Lucini, è una mia impressione o lei nota questo anche nel suo ambulatorio come medico? È proprio vero, nel senso che l'essere mamma è un qualche cosa che ti prende tantissimo, non hai tempo, soprattutto quando non eri abituata a fare determinate cose, per cui le priorità sono spesso altre e la salute della mamma viene sempre per ultimo. Diciamo che prendersi cura della propria salute è anche uno dei modi migliori poi per prendersi cura della salute dei propri figli e della propria famiglia, per due ragioni. La prima è che per prendersi cura degli altri devi stare bene tu, sembra una cosa banale, però è molto però è fondamentale. E la seconda è che dare l'esempio ai figli, magari non quando sono piccolissimi ma quando crescono, di uno stile di vita salutare, mm-hmm, è la cosa più importante per aiutare i nostri figli. Quindi a maggior ragione prendersi cura della propria salute è importante. Prima si stava dicendo che il diventare mamma, la gravidanza è un grosso cambio, sì, e molto spesso è proprio l'opportunità per ingegnarsi ad esempio nel risparmio. Bene, è la stessa cosa nella salute, perché quante donne, proprio perché la gravidanza cambia lo stato fisico o dà l'impressione di cambiare lo stato fisico, possono cogliere questo momento per incominciare ad avere uno stato di salute migliore in modo tale da vivere una gravidanza migliore e poi soprattutto dopo il parto cercare ad esempio di perdere quel paio di chili in più che ci sono, cercare di fare un pochettino di attività fisica perché magari sei stato ferme per più tempo per cose di questo genere. Certo, controllare l'alimentazione soprattutto nelle mamme che allattano, questo è necessario, però sì, anche per le mamme che non allattano è importante questa remise en forme che esatto, è a livello, sembra solamente a livello fisico, ma parte come sempre dal cervello. Allora ragazze, se avete capito tutto bene, sarete sicuramente in grado di rispondere a tutte le domande del questionario che trovate sulla nostra pagina, ma anche naturalmente sul sito di Humanitas, che riguarda proprio noi mamme. Candidatevi al nostro numero verde 800 24 00 24, chi arriva prima Deborah meglio alloggia, perché certo, alle nostre mamme che chiameranno e risponderanno correttamente alle nostre domande arricchiamo la libreria, certo, alla Cuore e ai Denari. Certo. Allora, iniziamo subito con la prima domanda, sì, voi candidatevi. Cosa deve fare una mamma per prendersi cura della propria salute? Allora, opzione numero 1, un check-up ogni anno. Opzione numero 2, stare attenta al proprio peso corporeo. Opzione numero 3, fare le scale a piedi e non fumare. 800 24 00 24, in linea con noi abbiamo la nostra prima ascoltatrice, Alba Chiara, che ci chiama da Crema. Buongiorno Alba Chiara. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, è una mamma di? Io sono una mamma di una bimba di 8 anni. E chiamavo per raccontare un po' la mia esperienza, come è cambiata la mia vita dalla nascita della mia bambina. Sì. La mia vita è stata speciale in quanto io sono laureata in pubbliche relazioni e lavoravo in un'agenzia a Milano. Da quando è nata la mia bambina ho deciso di seguire la sua crescita, di fare la mamma nel vero senso della parola, però anche non volevo comunque non valorizzare la mia professionalità. Certo. E ho capito che potevo dare un servizio con le mie competenze di comunicazione. Mi sono inventata un sito internet che si chiama www.crescibimbo.it, che elenca giorno per giorno tutti gli eventi della mia città e di tutta la provincia, di tutte le città del circondario, una vera e propria agenda online dedicata alle famiglie. Quindi si chiamano sito agenda, vero? Questi che si occupano proprio... è proprio un sito agenda locale. Poi naturalmente è ricco di informazioni, di rubriche, di dettagli sulla gravidanza, inoltre come servizio a livello locale riporta anche l'elenco degli asili, delle scuole, delle ASL, dei consultori, corsi, laboratori. I genitori che diventano genitori all'improvviso e non sanno come muoversi nella propria città, sul mio sito trovano tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio la propria Alba Chiara, questo tuo sito Cresci Bimbo è un caso isolato oppure ci sono anche altri siti agenda per l'Italia su cui magari i genitori possono trovare tutte le indicazioni utili? Questa è una buona idea, magari d'ora in poi ci saranno, se qualcuno raccoglie l'idea di Alba Chiara, magari su altre città si può sperimentare qualcosa del genere. Noi siamo interessati alle Marche perché abbiamo la sorella di Deborah che ha le prese con tre bambini, già insegnante, quindi forse magari non ha tempo, però per qualcun'altra che non lavora. Siamo una rete molto capillare, il mio sito infatti è online da 6 anni, ma quando è nato io avevo tante amiche mamme blogger che hanno preso un po' esempio da quest'idea e hanno a loro volta nelle loro città, Milano, da Milano a Roma, Catania, oramai sono capillari, siamo almeno una ventina, abbiamo formato un network, ogni mamma nella propria città ha organizzato questo sito agenda e conoscendo il territorio lo aggiorna giorno per giorno con gli eventi, i laboratori eccetera. E abbiamo formato un network che ci raggruppa tutti, perciò una mamma che abita in qualunque luogo d'Italia può andare su questo network e trovare il sito dedicato alla propria città. Alba Chiara, quali sono le informazioni più ricercate dalle mamme? Sicuramente le ludoteche, gli asili nido e anche i campi estivi. Perciò la prima necessità è quando sono piccolini, perciò come tornare a lavorare in serenità trovando una soluzione nella propria città che sia ideale per la propria famiglia. E poi quando sono più grandi invece i campi estivi, infatti adesso pian piano il mio sito verrà aggiornato con tutte le possibilità di campi estivi dal centro città alla campagna, in maniera che le mamme per tempo possano sapere una volta che finisce la scuola dove portare i bambini. Ilaria. Ecco, no, volevo fare un breve intervento perché mi ha fatto molto riflettere quello che ha appena detto Alba Chiara sul fatto che poi si ricerchino online ludoteche, luoghi dove portare i figli perché per farli divertire. Non ti aiuta? Non ti aiuta, anche se abbiamo guadagnato qualche posizione nella classifica che citavi tu prima. E purtroppo io adesso sono rientrata da 2 settimane dalla Colombia e che se ne dica, saranno paesi più indietro di noi, quello che vogliamo, ma noi siamo ancora molto indietro su questo fronte. Perché lì per esempio è prassi comune che per esempio nei bagni ci siano dei piccoli lavandini a misura di bambino, ma qualsiasi bagno, fasciatoi ovunque, seggioloni in tutti i ristoranti, nell'attesa vengono portati dei colori, dei pennarelli, dei giochini, e a tutti i bambini ci sono addirittura appunto delle persone dedicate all'animazione all'interno di tantissimi ristoranti lì. Per esempio io ero a Bogotà e per esempio si va al centro commerciale e ci sono tantissimi stand, postazioni gratuite dove è un servizio che il centro commerciale offre in più, sì. No? Dove i bambini possono giocare, possono ascoltare l'attore che racconta le favole, c'è il mini circo, ci sono le macchinine. Insomma, noi qua siamo costretti, soprattutto nelle giornate d'inverno, a portare i nostri figli all'IKEA, nello spa, nell'angolo giochi, sovraffollatissimo. Non ci sono tutte le palline lì colorate. Sì. E tra l'altro lo puoi lasciare un bambino, credo, anche per molto poco, esatto. Tutto molto a scadenza, per cui oggettivamente sarebbe curioso capire come siamo riusciti a risalire questa classifica, in che cosa ci hanno premiato, magari ci documentiamo entro la fine della trasmissione. Che sì, ne perché alcuni ascoltatori ci suggeriscono che siamo saliti perché sono indietreggiati gli altri. Secondo me non è così, perché insomma esperimenti magari come quello del sito di Alba Chiara, che segnalano alle mamme le iniziative sul territorio, sono espressione di un territorio magari che sta facendo qualche cosa per andare incontro alle mamme. Grazie ad Alba Chiara che ci ha chiamato. Allora, ci ricordi il sito, il nome del tuo sito, Cresci Bimbo? Certo, crescibimbo.it. Il nome del network di tutti i siti italiani è www.timeforkids.it. Va bene, grazie Alba Chiara per averci chiamato. Grazie a voi. Abbiamo Luigia. Andiamo che ci chiama da Roma, Luigia. 800 24 00 24. Benvenuta Luigia. Buongiorno. Eccoci. Allora, noi a Roma, un gruppo di pensionate, di nonne, sì. ci siamo attivate per sostenere il gruppo Gemma, che aiuta le mamme in attesa i 9 mesi e i 12 dopo successivi, sì, sia economicamente con un piccolo contributo mensile, ma proprio ridotto al minimo di 10 euro. E con questa capillarità siamo riusciti a sostenere in questi 3-4 anni che ci siamo associati un sacco di mamme che, oltre che economicamente, vengono aiutate psicologicamente, vengono aiutate anche con il sostegno medico, e in più con queste nonne ci siamo attivate a sostenerle per quanto riguarda vestiario, pannolini, in modo che la gravidanza venga affrontata con serenità, non con disagio, in tutto con una... come dire, non spendendo il nostro tempo, ma facendolo diventare proprio vita. Per noi, ecco, ci dedichiamo a questa cosa con grande gioia, la nostra vita, quella di sostenere queste donne, che adesso inizialmente erano solo 5-6. Bene, ora ne aiutiamo 30-40 famiglie nel nostro gruppo. E quindi vedi, vedi Deborah, le donne fanno rete. Esattamente. Grazie a Luigia. Peraltro mi sarebbe anche piaciuto sapere, se ha ancora un minutino di tempo, Luigia, che ci raccontasse quali sono le esigenze più forti che hanno, quali sono le necessità più immediate che manifestano quando si rivolgono alla vostra associazione. La paura di stare soli, di essere isolati. Quindi questo fatto di essere sostenute, di trovare un punto d'appoggio medico, psicologico, fattivo, soprattutto fattivo in 18 mesi, cioè non una cosa così saltuaria oppure un negozio dove passi e trovi conforto, ma proprio una capillarità. Io quando arriva delle belle cose per i bambini, la prima cosa che faccio è il messaggio: vieni che trovi tante cose belle per il tuo bambino, giocattoli, vestiario, scarpe, ovviamente tutto molto decoroso, tutto nuovo. Assolutamente. Ed è una capillarità che... Luigia, esperienze come la vostra rallegrano Gemma, il cuore. Si chiama l'associazione Gemma. Il progetto Gemma, e la nostra amica è Luigia, che ci racconta di come le donne riescono a sostenersi e a fare rete. Noi vogliamo anche aprire i microfoni alle mamme che ci possono raccontare le loro difficoltà. Magari non possiamo, no, risolverle con la bacchetta magica, ma ne parliamo. Difficoltà alla cuore e a denari. Abbiamo due esperte a vostra disposizione e noi siamo qui pronte per ascoltare i mercati. Cuore e denari. Io corro dalla mattina quando mi sveglio alla sera quando vado a letto, e molto spesso corro anche nel sonno. Faccio chilometri e chilometri in sogno, e la mattina mi sveglio già esausta. Corro come nella storia del leone e della gazzella, solo che io non vivo nella savana e non sono il leone, e non corro per mangiare la gazzella, e non sono nemmeno la gazzella, e non corro per non essere mangiata dal leone. Corro per essere una brava madre, una buona moglie, una persona affidabile nel lavoro, e anche un po' per cercare di esistere per conto mio. Corro tanto, ma non ce la faccio mai. Mamme che fanno tante cose, mamme multitasking, divise tra lavoro, casa, figli, ma anche genitori magari da accudire, mamme acrobate sono state definite. Voi come vi definireste? 800 24 00 24, ne stiamo parlando a cuore denari, con Mamma Risparmio, perché le mamme devono... tenere un po' il bilancio della famiglia. Deborah mi guarda perché è preoccupata del mio, vero? Del tuo bilancio? Perché adesso non puoi più attribuire responsabilità alle tue figlie, perfetto, perché sono grandi ed indipendenti, per cui... E lo facciamo anche dal punto di vista del cuore, della salute. Come sosteneva la nostra ospite, la professoressa Lucini, la gravidanza è un'occasione per una remise en forme, non solamente fisica, ma anche per andare a toccare alcuni aspetti del nostro stile di vita che magari abbiamo trascurato e che alla lunga invece possono diventare un investimento per il futuro. Ma professoressa Lucini, intanto che attendiamo le nostre ascoltatrici che abbiamo chiamato a rispondere alla domanda: che cosa deve fare una mamma per prendersi cura della propria salute, diciamo che le mamme di oggi sono più stressate delle mamme di ieri. Vero, vero. Ma sono più stressate da un lato, però è anche vero che in fondo stanno anche bene, perché stress vuol dire tante cose. In questo caso delle mamme vuol dire che hanno tante cose da fare, perché hanno tante priorità. Forse l'unico vero stress, quello che accennavi tu anche prima, è il non sapere come dividersi tra casa e lavoro, è il non voler rinunciare a una professionalità, ma nel contempo non voler rinunciare a stare con i propri figli, con la propria famiglia. Questo però, come sempre come la gravidanza, che era un'opportunità, può essere anche in questo caso un'opportunità, perché una mamma impara ad organizzarsi. Una mamma ha la grande capacità, il grande pregio di, è vero che si stressa, ma riesce anche a fare tantissimo, proprio perché impara a fare delle cose in maniera più saggia, in maniera più utile, impara ad organizzarsi, impara ad avere molte più possibilità di confronto. Una mamma che lavora è anche una mamma che si può confrontare con altri, è una mamma che magari riesce più facilmente a trovare una soluzione ai propri problemi, è una mamma che può avere delle conoscenze tecniche per cui magari più facilmente riesce ad andare in rete a cercare tutta una serie di informazioni, eccetera. D'altra parte però non bisogna arrivare al limite, cioè quando questo stress incomincia ad impattare sulla salute. Per cui cerchiamo di capire quali possono essere le cose da fare per non arrivare a questo punto. Quindi la prima cosa è, se tu mamma ad un certo punto ti rendi conto che ti sembra di non star bene, di non star bene vuol dire sei stanca, non ce la fai più, incominci a renderti conto che cambia il tuo modo di vivere, perché l'umore, mangi di più, tagli, l'umore scende, tagli gli impegni che sono piacevoli per te, ecco, questo non va bene. Il suggerimento è proprio quello di, da un lato, fare sempre in modo che ci siano dei momenti dedicati alla mamma, dedicati alla coppia, che molto spesso è l'altra delle cose che può soffrire di questo, di questa. Sì, è proprio un segnale di disagio, quando la coppia non inizia a non funzionare più, non ci sono più attenzione alla mamma, soprattutto intesa come donna. La mamma si mammizza a 360 gradi. Questo è un rischio che è abbastanza facile da correre. Sì, assolutamente. A me è capitato, credo che sia capitato anche a molte altre mamme alle prime armi, perché la vita viene completamente stravolta, la vita di tuo figlio dipende completamente da te, e quindi c'è questo rischio. L'importante è rimettersi in carreggiata. E tornando proprio al discorso della rete, io credo che la rete sia molto trasversale, che ormai davvero non ci sia più come dire il ceto medio, il ceto alto, quello che ha più accessibilità alla rete. Ormai tutti hanno accesso alla rete, di qualsiasi tipo, insomma, di professione facciano o meno. Quindi la rete è davvero un aiuto importante per queste mamme in difficoltà, che si sentono sole, che non sanno bene come destreggiarsi, non sanno se sta accadendo solamente a loro, e non sanno se, per esempio, da quando sono diventate mamme sono solo loro che litigano con i mariti. Io per esempio ho litigato tantissimo all'inizio, anzi ho iniziato a litigare quando con mio marito, quando è arrivata mia figlia. Ci sono dei momenti, no? Si litiga prima del matrimonio per organizzare il matrimonio. Sì, sono fisiologici. Sono fisiologici, irrobustiscono la coppia, se la coppia è fatta per stare insieme. Vi leggo qualche messaggio. Buongiorno carissime, è Adriano da Monaco di Baviera che addirittura ci scrive per segnalarci un'iniziativa di Milano, una startup che si chiama Piano C, non so se Ilaria la conosce. Sì, la conosco. Di Riccardo Zezza, propone tantissimi servizi alle mamme lavoratrici. Tornando invece alle mamme che si trascurano dal punto di vista della salute, Lavinia, sempre da Milano, ci scrive: mamma di 3 figli, dopo la terza maternità non ho più trovato tempo e testa per prendermi cura di me. Ora da 3 mesi combatto con un'ernia invalidante e ne soffre tutta la famiglia. Potessi tornare indietro, quindi fate bene a sensibilizzare le mamme su questo aspetto. Ilaria, stavo curiosando intanto sul tuo sito, su Mamma Risparmio. La prima cosa che hai messo lì in bella vista è: vinci un volo a Parigi, fai anche sognare le mamme. Ma a parte questo, sì, ci sono alcune che ci chiedono dove si possono trovare i coupon. Come li cerchi, appunto, queste opzioni risparmio che poi metti a disposizione nella conoscenza per le mamme? Allora, è un lavoro certosino, nel senso che risparmiare è conveniente, ma richiede anche tanto tempo, quindi non è una cosa che possono fare tutti. E io appunto con il sito ho pensato appunto di fare da mediatrice, no? Collettore, insomma. Esatto, un aggregatore di coupon in tal senso. E uno deve anche valutare un attimo, no? Una persona desiderosa di risparmiare, se vale la pena perdere poi tutto quel tempo. Mi riferisco per esempio all'autoproduzione, che è una cosa che va tantissimo tra le mamme. Vale la pena mettersi lì, perché poi vabbè, è bellissimo. Io stessa autoproduco, io stessa do dei consigli, sì, sul mio sito. Tipo l'autoproduzione della marmellata fatta in casa, sì, o del detersivo. È il mio post assolutamente più gettonato, che è stato condiviso più di 150.000 volte su Facebook, e nel mese di novembre mi ha portato un traffico straordinario per un sito che aveva appena 6 mesi. E non avevi neanche fatto tu il sapone? No, perché la cosa bella di questo sito è che sono in tante le mamme che mi scrivono, che partecipano attivamente con i loro contributi, per cui è una cosa, questa per me è impagabile, anzi che mi ripaga poi di tutto lo sforzo, perché di blog e di siti, insomma, è difficile camparci, è davvero poco poi quello che io porto a casa ogni mese. Però questa relazione che si è creata proprio con tutte le mamme della mia community è ricaricante assolutamente, appagante, bisognerebbe dire, no? Solamente paga. Per ricordare alle ascoltatrici in ascolto appunto che non si parla solamente di coupon e di consigli per gestire al meglio il bebè, ma per esempio anche per orientarsi nel mondo della burocrazia, perché anche di quando si diventa mamma magari è un campo dal quale si vuole stare più distaccate possibile. Assolutamente, e tornando appunto al fatto della gratificazione che io ricevo, la massima, proprio l'apoteosi, è quando mi arriva una mail che mi dice: grazie Ilaria, grazie mamma risparmio, come mi chiamano, perché attraverso la tua segnalazione ho scoperto di avere diritto al non so, all'assegno dei comuni. Tante mamme hanno diritto a dei sussidi, esatto, quello dei comuni, dello ad stato, esempio, quella dei comuni. Questi sindaci potrebbero anche farsi un po' di campagna elettorale qualche volta con queste iniziative invece che con le sciocchezze. Beh, no? Ci sono non molti, ma un po' di soldini per queste cose ci sono. Certo, assolutamente. Chi ha un ISE basso, sì, ovviamente, se avete 3 case di proprietà e guadagnate 5.000 euro al mese, scordatevi, no, perché c'è gente anche che si lamenta poi di non averne diritto. Perché lamento? Ecco, sì, non si è mai contenti. Esatto. Se invece io, per esempio, all'epoca usufruì dell'assegno di maternità dei comuni, ma né io né mio marito avevamo avuto un reddito l'anno prima, perché eravamo entrambi a casa, per cui insomma, pur avendo la casa, ripeto, di proprietà, era una situazione comunque al limite. Paghiamo adesso poco di asilo nido, che ricordo può essere scaricato in dichiarazione dei redditi, spesso non lo si sa questa cosa, perché l'asilo normale, quello dai 3 anni ai 6, dice normale, chiamiamolo così, non può essere quella materna. Esatto, quella. Ma quello nido sì, quello nido sì, come la babysitter. D'altronde con quelle rette che hanno. Sì, ci mancherebbe pure che non ci farebbero cari, che non ci facessero risparmiare sulla dichiarazione dei redditi. Quindi se siete mamme con bambini all'asilo nido, chiamateci 800 24 00 24. Tra l'altro, e questo è anche il momento, professoressa Lucini, della vita di un bambino in cui è bene impostare, tra virgolette, le regole di un buon stile alimentare. Parleremo di merendine, naturalmente, con la professoressa Lucini, parleremo di attività fisica che fa bene alla mamma e fa bene anche al loro bambino, ma prima di portarle all'asilo nido c'è il grande problema dell'allattamento, un'opportunità. Il latte è un alimento assolutamente alla cuore denari, Deborah, perché fa bene e costa zero. E a chilometro zero, centimetro zero, millimetro zero, sempre pronto a disposizione ovunque, alla giusta temperatura. Di questo parleremo nel corso della nostra trasmissione, quindi un invito particolare alle mamme che stanno allattando, stanno pensando di diventare anche mamme. Tutti i consigli, facciamo rete all'800 24 00 24. Cuore e denari. L'esperienza più incredibile della vita di ogni donna, parlo io che non sono mamma, però ormai sono circondata da amiche mamme, una sorella con tanti figli, per cui sono come dire, indirettamente abbastanza informata su quello che capita, e però qualche volta per molte anche sorprese inattese. Poi magari con Ilaria Cuzzolin, qual è la spesa del tutto imprevedibile che bisogna sostenere quando nasce un figlio e alla quale in coppia anche non ci si pensa? Ma ci ho pensato anch'io, onestamente. E il tiralatte, mi viene da dire. Ma il tiralatte non tanto imprevedibile, perché se uno ha la fortuna di non avere problemi con l'allattamento, non ha bisogno del tiralatte, poi si può affittare comunque in farmacia. Io ho le spese mediche, perché io sapevo che i bambini si ammalavano tanto e spesso, soprattutto quando andavano al nido come la mia, ma così tanto non immaginavo. Roberta da Parma, buongiorno, si ritrova un po' in tutto quello che abbiamo raccontato questa mattina? Sì, buongiorno, sì, buongiorno. Mi ritrovo, anche se è un ricordo un po' lontano, perché mio figlio è passato un po' di tempo. Quanti anni ha? Mi scusi che l'abbiamo perso, Roberta? 48. No, suo figlio. No, mio figlio 18. 18 anni. Qua. E quindi? Cosa voleva raccontarci? Quindi volevo parlare della situazione del mondo del lavoro con la maternità. Io sono artigiana e ho trovato grosse difficoltà, perché si perde di competitività e ci sono nel mondo del lavoro che non tiene in considerazione le problematiche. La prima era quella che mi ha appena risolto la signora, l'esperta di prima, che ha detto che erano detraibili le spese della babysitter e del nido, cosa che non era fino a qualche anno fa. La seconda è che gli studi di settore degli artigiani non tengono in considerazione che una mamma non è più competitiva e produttiva per tanto tempo, perché un bambino ha bisogno di tempo e di attenzione anche per tanto tempo. Tra l'altro, Roberta, ne approfitto per anticiparle che proprio domani ci occuperemo di artigiani in Italia, perché qualcuno pensa e molti pensano che ritrovare la manualità, il lavoro artigianale appunto, sia una risposta molto importante alla crisi dell'occupazione attuale, quindi se vuole così può intervenire anche nella puntata di domani. Grazie. Grazie Roberta, continui a seguirci. Grazie a voi. E noi andiamo a Bari, perché c'è Daniela, 800 24 00 24. Ricordatevi che c'è anche il nostro domandone: come fa una mamma a mantenersi in forma? E abbiamo tre opzioni. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, diciamo che io, che ero in attesa, avrei da rispondere, da voler intervenire su tutto quello che ho sentito fino ad adesso, ma forse è troppo. Va bene, vuol dire che abbiamo toccato dei temi di suo interesse. Le due cose più importanti. Tutti. Allora, in primis, io chiamavo per segnalare un sito della mia città, che è la città dei bimbi, dove si trova tutto quello che può interessare per i bambini. Bene, che è un sito agenda. Ecco, questi siti agenda vanno Il fenomeno delle mamme blogging in Italia è incredibilmente in ascesa. È tutto un stile naturalmente a stelle e strisce, dove è nato negli Stati Uniti. Peraltro segnalo che proprio sabato ci sarà il Social Family Day a Milano, che è una giornata dedicata a tutte le mamme blogger che arrivano da tutta Italia, e proprio perché, mi ripeto, la necessità di condivisione tra le mamme è talmente alta che una rimane incinta e apre un blog. Una volta avevamo a disposizione le mamme della famiglia, vero professoressa Lucini? Cioè, c'erano queste famiglie che erano più numerose, c'era la mamma, c'era la zia, la sorella della mamma, e quindi anche una giovane mamma si sentiva un po' supportata dalle donne di casa, da quel gruppo di cui faceva parte. Adesso invece non c'è più questo tipo di cosa, vero? E quindi ci siamo un po' noi a cuore denari. Ci siamo organizzate, abbiamo trovato una soluzione. Ecco un esempio di quello che dicevamo prima, di mettere a fuoco, cioè di mettere a punto questa creatività e questa voglia di fare che la gravidanza o avere un figlio o l'essere mamma ti dà. Vero? Ecco. Anche perché si diventa mamme sempre più tardi. Milano, per esempio, che è la mia città, è la città con le mamme più vecchie, tra virgolette, perché io ci sono dentro, d'Italia. Il primo figlio arriva normalmente intorno ai 33 anni, e addirittura c'è un altro dato, secondo me, allarmante, che le mamme che hanno figli dopo i 30 anni hanno superato quelle che hanno figli, insomma, tra la fascia di età tra i 18 e i 30 anni. Assolutamente vero. Avevamo presentato, mi ricordo, in occasione di un una puntata tutta dedicata alle donne, un libro il cui titolo fa proprio il caso nostro, Mammina vecchia fa buon brodo. E in effetti le mamme, la professoressa Lucini ride, ma in effetti è vero, si è usa vero. Questo bruttissimo termine, la primipara attempata, che è una cosa che io detesto come descrizione, come definizione. Però è vero, le mamme fanno, e le mamme milanesi in modo particolare. Quando io sono rimasta incinta a 32 anni, non avevo un'amica con cui confrontarmi che avesse già avuto un figlio, solo per darvi il quadro della situazione. Lo vediamo proprio anche noi con io sono un medico, oppure con le mie colleghe medico, che ormai tu prima devi studiare, poi devi lavorare, poi devi trovare un qualcosa di, prima dei 30 anni quasi quasi non incomincia a pensare ad avere un bambino, è quasi paradossale. D'altra parte questo però porta anche tutta una serie, diciamo così, di vantaggi, perché sono comunque delle persone che magari non sono pronte per la gravidanza, perché fino a quel momento non ci hanno pensato così tanto. Però sono pronte perché sono magari abituate a lavorare, abituate a fare tutta una serie di cose, e quindi anche capace di gestire una situazione nuova in modo diverso. Se poi ci si mette insieme in maniera diversa di quanto succedeva nel passato, va benissimo, purché la cosa sia utile. Abbiamo con noi la prossima ospite, oggi è inevitabile, no? Che è tutto è un gineceo. Perché in linea con... Ma infatti potremmo anche invitare qualche papà a darci il suo punto di vista su tutto questo. Bravo. Non direi sull'allattamento, ma magari come l'ha vissuto anche con la sua compagna. Potremmo anche invitare i papà per raccontarci che tipo, come si è trasformata la loro compagna in mamma, se dovessero si è trasfigurata. Il contributo di mio marito è stato fondamentale all'inizio, perché io ho avuto la fortuna di avere mio marito a fianco per tutto il primo anno di vita della mia bambina, quindi è una cosa direi unica, straordinaria, poter vedere giorno per giorno il proprio figlio che cresce. E se si potesse, come dire, prendersi un anno sabbatico dal lavoro, sia la madre che il padre, perché spesso vengono dimenticati i diritti dei padri, però ci sono anche loro. Ci sono anche loro che hanno l'opportunità di stare a casa qualche giorno, lo contemplava, se non mi ricordo male, la legge Fornero, però non ne approfittano in molti, e devo dire che comunque questi giorni sono molto pochi, ecco. E se ne avete approfittato, chiamateci anche voi, papà all'ascolto, GR. Cuore e denari. Mamma mia, here I go again. Mamma, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? Mamma, just how much I missed you. Yes, e siamo tornati, puntata dedicata alle mamme. Iniziamo con Mamma mia, che è un'esclamazione di stupore, ma anche di preoccupazione, di paura. Mamma mia, no? Che si dice, sì, Deborah. È molto frequente, viene spesso molto frequentemente, sì. Quando qualcosa ci fa un po' paura, pensiamo subito alla mamma, alla nostra mamma, che è sinonimo di protezione, ma anche le mamme di oggi hanno le loro paure e le loro fragilità. Vi stiamo chiedendo di raccontarcele all'800 24 00 24. Le mamme raccontano i loro timori, i loro dubbi, le loro fatiche in rete, le raccontano anche attraverso il nostro numero verde. Un tempo erano le donne di casa che ci sostenevano, adesso sono le amiche che incontriamo in rete. Ma io in linea con noi abbiamo ancora la professoressa Lucini, che è un po' la nostra amica, è amica del nostro benessere, della nostra salute. Allora, prima di salutarci, come avevamo promesso, professoressa Lucini, diamo un'indicazione molto semplice, raccomandando alle mamme, anche se hanno figli piccoli, di non trascurare la loro salute. Cosa possono fare? La cosa più importante è proprio quella, da un lato curare la propria salute e quindi fare anche degli esami per capire come stanno le cose, ma soprattutto cambiare in meglio il proprio stile di vita. È già un momento in cui si cambia tanto, cambiamo anche nel senso di mangiare meglio, fare attività fisica, smettere di fumare, e che è un grandissimo esempio che possiamo dare ai nostri figli. Direi che questo è forse il suggerimento più semplice e più importante. Per i nostri bambini sappiamo che l'età, i primi anni di vita sono molto importanti, professoressa Lucini. Ed è proprio il momento in cui imparano di più, ma imparano non tanto dalle parole, ma da quello che vedono dalla mamma e dal papà. quindi offrire loro un ambiente familiare in cui la salute è presente, ma salute vuol dire quello che mangiamo, vuol dire andare insieme a fare delle passeggiate, vuol dire andare a scuola a piedi, andare all'asilo a piedi, è questo l'insegnamento più importante da dar loro. Grazie professoressa Lucini, ricordo che se volete fare il questionario che ha ideato la professoressa Lucini e trovare le risposte, non le trovate solamente nella nostra pagina di Cuore Denari, ma anche sulla pagina del sito di Humanitas, vero prof? Sicuramente, dice tutto. Grazie professoressa Lucini per essere stata con noi. A presto, buona giornata. Abbiamo un'altra amica, Deborah. Salutiamola allora. Sì, Luisa entrare a Cuore Denari. Ding dong, buongiorno. Ciao. Eccoti. Ecco, buongiorno a voi, a tutte le mamme, ma anche ai papà in ascolto. Non dimentichiamoci. Assolutamente. Vogliamo intanto. Non volevamo escluderli questa mattina, però. No, ma ascoltano anche loro. Dalla mia esperienza so che sono lì, origliano, ascoltano. E magari cercano di capire quale chiave di lettura dare a questa nuova dimensione della famiglia, no? Perché esatto. Anche loro un po' si trovano spaesati. Nicoletta. Luisa è community manager del sito Nostro Figlio. Luisa, parlavamo di mamme che si raccontano, mamme che si confrontano. Quali sono i temi più gettonati dalle mamme sul vostro sito? Ma primo tra tutti, uno dei temi che sicuramente alle mamme è molto a cuore è l'allattamento. Sarà che si diventa mamma e quindi proprio il primo problema, comunque il primo dubbio che viene è: ok, io questo esserino piccolo dipende totalmente da me, che cosa fa? Mangia, dorme, piange, e quindi proprio è uno di quei temi che sono veramente tanto a cuore delle mamme. Se dobbiamo fare la hit parade, ce ne sono anche altri. Mettiamoli. Quindi, allora, primo allattamento. Allattamento, poi la nanna. Poi metterei coliche, se parliamo sempre di neonate, man mano che cresce, pian pianino coliche. Poi qualcos'altro tipo più sulla salute, febbre, tosse, raffreddore. E poi ci sarà poi svezzamento. Asilo nido, sì, asilo nido no, la scelta esatto. Dell'asilo. Insomma. Tornare al lavoro oppure no, mamma che lavora oppure no, anche adolescenza. Poi ci sono mamme di neonati o anche di bambini di 1-3 anni che pensano già quando sarà adolescente. Ci sono veramente pensieri per ogni. Si portano, Luisa, avanti, come si dice. Anche noi direi ci siamo sì. Portati avanti. Abbiamo invitato il dottor Riccardo D'Avanzo, neonatologo dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste e presidente del tavolo tecnico sull'allattamento al seno del Ministero della Salute. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Devo dire che è l'unico uomo in questa trasmissione. Si trova bene, sì. Sì, un po' in imbarazzo. No, ma no. Non credo, perché il dottore, facendo il neonatologo, pensa sei sempre. Non sarà la prima volta che si trova in questa condizione. Dottore, le mamme lo sanno bene, il latte materno è un alimento perfetto, contiene i nutrienti necessari perché il bambino possa crescere forte e sano. E a proposito di salute, anche le nostre nonne, no, dicevano allattalo che lo proteggi, che non si ammala. E d'altra parte questo concetto è ripreso anche dall'UNICEF e dall'OMS, che stimano che se tutti i bambini fossero allattati esclusivamente al seno nei primi 6 mesi di vita, ogni anno, pensate, si salverebbe la vita di circa 1,5 milioni di bambini che sono vittime di malattie e di malnutrizione. Però questo, dottore, per dire che il latte materno fa bene alle mamme, ai bambini e direi anche al portafoglio. Quindi l'alimento ideale per Cuore Denari. Lo ribadiamo questo concetto? Sicuramente sì, come dice lei è un sapere antico, già le nostre nonne lo sapevano ancora prima. Certamente negli ultimi 50 anni, il periodo in cui si è recuperato dopo la Seconda Guerra Mondiale l'allattamento naturale, sono stati fatti degli studi per cui questo sapere è ben documentato anche scientificamente. Però bisogna cogliere esattamente il significato di quello che gli studi ci indicano. Gli studi ci indicano in sostanza che in una popolazione, se una popolazione adattata al seno è mediamente più sana di una popolazione adattata in maniera artificiale. Mm-hmm. Però non vi è un determinante assoluto, non è che il bambino adattato al seno è protetto da tutto sempre, il bambino adattato artificialmente è soggetto a tante malattie. Quindi la variabile alla nutrizione, e non voglio minimamente sminuire l'importanza di essere allattati al seno, la determinante nutrizione, la variante nutrizione condiziona, facilita, influenza un benessere, però la malattia è determinata da tanti fattori, quindi fattori genetici, fattori ambientali di altro tipo, non solo dalla dieta. Certo. Quindi quando lei cita giustamente l'OMS e l'UNICEF e dice che se i bambini fossero tutti allattati al seno si risparmierebbero 1 milione di morti all'anno, è verissimo, questo è tanto più vero però quanto noi andiamo a vedere i paesi a risorse limitate, quelli che chiamiamo i paesi in via di sviluppo, sì. Ed è un po' meno vero o molto meno nei vero nostri. O non vero per noi, ecco, questo perché ci sia l'informazione, diciamo, piena e corretta ed equilibrata. Corretta. Tra l'altro, però, la nostra mamma risparmio. Sì, io sono una di quelle professore che vengono chiamate le talebane dell'allattamento, perché mia figlia compirà il prossimo 25 giugno 2 anni e, come sì. si sa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità caldeggia l'allattamento almeno, insomma, fino ai 2 anni. Ovviamente sì. è molto difficile poterlo fare, ma allattare al seno non fa bene soltanto al bambino, fa bene anche alla mamma, perché, come sappiamo, l'incidenza di tumore al seno per le mamme che allattano è molto, ma molto più bassa rispetto a mamme che non hanno allattato al seno. Per non parlare della tua forma fisica che è strepitosa, lo diciamo, quindi, a chi ci ascolta. Per questo avevamo anticipato che l'avevamo detto, il latte materno, un latte alla Cuore Denari, perché fa bene alla mamma, fa bene al bambino e poi non costa nulla e quindi fa bene anche al portafoglio. Però per riprendere Luisa Perego, Luisa, però ci sono mamme, lo sai, che non riescono ad allattare, non hanno più latte, non ne hanno a sufficienza, questo fa nascere dei sensi di colpa di cui sicuramente le mamme parlano, anche magari sul vostro sito. Esatto, ne parlano veramente tantissimo. Noi sulla nostra pagina Facebook abbiamo una rubrica che si chiama Da Mamma a Mamma e quindi in questa rubrica tutte le mamme ci mandano dubbi, chiedono consigli e una volta al giorno, se non anche di più, uno di questi dubbi o consigli è proprio sull'allattamento, ma non riuscire ad allattare, e ci sono di quei sensi di colpa veramente allucinanti che non hanno neanche senso a volte. E mi sono raccolta certi commenti che le mamme ricevono quando non allattano più al seno, giusto per rendere un po' a che pressione vengono veramente sottoposte. Sì, esatto, per esempio non hai latte e vabbè, poi non è che puoi farlo morire di fame per la tua fissa dell'allattamento. Questi sono commenti che ricevono dalla madre, dalla suocera, ma anche da non conoscenti, da persone che vedono per strada, vengono veramente giudicate così senza veramente pensarci prima quanto effettivamente una donna. A me poi danno della zingara, per esempio. Esatto. Perché allatti, se non allatti, dottor. Esatto. Chiediamo, non si fa mai bene. Chiediamo al dottor D'Avanzo, tante paure, la mamma teme ad esempio che il bambino non cresca bene se non è allattato naturalmente. Dottore, ci sono però i latti artificiali che naturalmente sono un sostituto al latte materno, ci sono delle novità? Il latte materno è unico, ma con il latte artificiale i bambini comunque crescono ugualmente, si dice, no? Si vede anche. Quali sono le novità in questo campo? Ma sono dei latti che sono proprio prendendo esempio dalla composizione del latte materno, che è sempre meglio conosciuta, sono dei latti sempre più complessi, nel senso che cercano di imitare il modello a cui tendono. In questa complessità sicuramente acquistano qualità. Vi sono però dei limiti, uno in particolare che credo, nonostante i progressi scientifici recenti nel campo anche della preparazione, quindi novità industriali nella preparazione di latte artificiali, c'è un punto che non credo potrà essere superato, che è il fatto che il latte artificiale, per quanto vi siano varie formule adatte per i prematuri, adatte per i bambini nei primi mesi, adatte per i bambini successivamente, sono delle formule, diciamo, sempre identiche a se stesse. Ecco, vi è una proposta varia, un'offerta varia, però preso il singolo latte resta uguale a se stesso, mentre il latte della mamma varia. E quindi questa, questo è un limite. Un altro limite sono i fattori di difesa, in particolare le cellule che sono vive, presenti nel latte umano, mentre non possono essere presenti nel latte artificiale, che è un latte per definizione inanimato. Quindi continuano i progressi, non ci sono delle novità rivoluzionarie che gli studi scientifici possano, diciamo, vantare fortissimamente, però si sta continuando a dare dei sostituti sempre migliori, questo sicuramente sì. Andiamo a Prato, c'è Alessandra, 800 24 00 24, spazio alle vostre telefonate. Alessandra, benvenuta e buongiorno. Sì, grazie, buongiorno a voi. Io diciamo mi inserisco un po', tra virgolette, in controtendenza rispetto a quello che si sta dicendo, nel senso, mi spiego meglio, che sono una strenua, come posso dire, difenditrice, scusate l'italiano, come potrei... Alessandra, dobbiamo riprendere il collegamento perché non la sentiamo, se dalla regia la richiamano subito. E andiamo, dove andiamo, dalla provincia di Varese o nella provincia di Caserta, Deborah? Andiamo a Caserta perché avevamo lanciato un po' il tema del cambiamento della situazione familiare dopo l'arrivo di un bebè e soprattutto nel cambiamento della relazione fra mamma e papà. Monica, che cosa è successo a casa sua? Buongiorno. Buongiorno a voi. Niente, io ho avuto un po', credo, il problema opposto a tutte le coppie. Si dice che quando una donna diventa mamma poi tende a trascurare il proprio compagno, sì, marito. A me è successo il contrario, nel senso che mi sono sentita completamente trasparente, pur avendo ancora una bella forma, perché ho preso solo 6 kg durante la gravidanza, mio figlio era 3,2 kg, sono uscita dall'ospedale piatta, senza pancia. Sì, poteva mettere l'abito da sera, come si dice, no? Sì, pronta, guardi, con il tacco 12 e l'abito da sera. Sono stata fortunatissima, anche molto attenta, per carità. E durante la gravidanza, ma ho avuto una sorta di, forse l'ho sentita io in un modo esagerato, però mi sono sentita trasparente e tutto questo ha influito molto sul nostro rapporto, perché praticamente mio marito ha riversato tutte le attenzioni su mio figlio, non che io ne fossi gelosa, però è stato veramente difficile da ingoiare, ma è stato un boccone amaro. Questo è veramente del tutto imprevedibile, insomma, che il papà si trasformi in mamma. Monica, ma adesso le cose come vanno? Si può chiedere? Beh, adesso fortunatamente abbiamo ripreso un po' il nostro equilibrio, un po' tutto. Va bene, quindi è stata una situazione passeggera. Lui, insomma, questo nuovo ruolo lo ha accolto con grande entusiasmo, il suo compagno. Grazie, Monica. Volevo solo fare, tornando per un attimo al latte, una segnalazione sulla questione del prezzo del latte artificiale, perché oggi, come sapete, sono anni che c'è questa polemica della differenza enorme di prezzo nella stessa marca fra il prezzo appunto praticato in Italia e all'estero, e sono passati 10 anni dallo scandalo sul latte in polvere, era nella primavera del 2004, questa mattina lo ricorda ancora il Corriere della Sera, in cui emersero clamorosamente queste differenze dei prezzi italiani con quelli stranieri, una differenza addirittura del 400%. Adesso la questione, proprio ieri in occasione della festa della mamma, lo ha sollevata di nuovo il ministro della salute Beatrice Lorenzin, che addirittura teme che ci sia un cartello in Italia fra le società che distribuiscono, e per cui speriamo che si faccia chiarezza al più presto. Dottor D'Avanzo, vuole fare un commento sulla questione del prezzo di questi latti artificiali, che sono davvero molto costosi? Ma sono costosi, però intanto io credo che bisogna distinguere dove vengono acquistati. Per esempio nelle farmacie il costo è maggiore rispetto alle sanitarie, sì, quindi ci possono essere fatte delle scelte proprio da saggio consumatore, e quindi ottenere lo stesso prodotto a un costo quindi un costo anche minore. Lei sposa un po' la tesi della nostra mamma risparmio, che suggerisce sul suo sito dove risparmiare. Sì, esattamente. Sì, esiste la possibilità, ecco, sì, probabilmente in un paese piccolo con un'unica, sì, farmacia, ecco, no? Lo so. Ricorda la possibilità dei gruppi d'acquisto, online che se ne trovano tantissimi, su Facebook ci sono tantissimi gruppi dedicati a questo, per cui andate a spulciare. Poi io adesso mi riprometto di segnalarli bene sul mio sito. Bene, allora ringraziamo il dottor D'Avanzo, Luisa Perego, Ilaria, la nostra Cuzzolin, Deborah e Nico, e noi andiamo. Mamezie, a domani, grazie. Cuore e denari.